questa sera con noi Giovanni Bignami. Cosa resta da scoprire, cosa ci resta ancora da conoscere, è il titolo del suo ultimo libro. Dunque, stavamo parlando di genetica. Io ho letto tra le appunto le storie che racconta quella della mosca Matusalemme, che davvero mi ha sbalordito. Cioè il fatto che intervenendo geneticamente su un organismo vivente si possa quasi quadruplicare la sua speranza di vita è ancora più semplice, ancora più semplice. Le mosche, le solite fruit flies, mosche banalissime, fanno tante uova. Se io impedisco alle uova di schiudersi, per esempio raffreddandole, finché metà di esse non sono morte, e poi lascio schiudere soltanto quelle che sono ancora vive, e ripeto questa operazione per un certo numero di generazioni, che per fortuna si succedono rapidamente nel caso delle mosche, dopo un numero sufficiente di generazioni io produco tutte mosche che vivono quattro volte quelle normali. Quindi lei dice non è neanche una complessità. Io ho usato il termine genetico e ricorda più i fagioli che abbiamo studiato a scuola, cioè una selezione. Sì, voglio dire, è di una semplicità sconcertante, perché dimostra che la longevità, quella cosa che tutti vorremmo, è scritta nella genetica in qualche modo. Naturalmente l'elisir non di lunga ancora. Vita. Voilà, l'elisir di lunga vita, si beve un bicchiere di DNA di quel giusto e si vive quattro volte. Ed una semplicità sconcertante, e ovviamente bisogna capire, applicare all'uomo, eccetera, ma è una strada giusta e affascinante, è decisamente qualcosa che resta da scoprire. Quindi sicuramente tra i grandi temi la vita sulla Terra, poi l'altro grande tema è quello della vita fuori dalla Terra. Questo proprio in conclusione del secolo scorso siamo entrati, diciamo, nella storia degli esopianeti, dei pianeti che ruotano intorno ad altre stelle e che magari possono portare appunto forme di vita. Poi ne abbiamo scoperti talmente tanti in pochi anni che diamo un po' per scontato che ci sia questa vita. Forse diamo un po' per scontato, però non l'abbiamo ancora trovata. Assolutamente. Questo dettaglio non trascurare. No, quello che stiamo cercando attivamente, e sicuramente lo troveremo in tempi molto brevi, è una nuova Terra, cioè un altro pianeta come il nostro che potrebbe potenzialmente ospitare la vita, e cioè con acqua liquida, atmosfera e tutte queste belle cose che noi abbiamo su questo pianeta. Sicuramente ne abbiamo già trovati diversi simili alla Terra. Prima o poi, con strumenti astronomici più potenti di quelli che abbiamo adesso, potremo vedere se lì sopra ci sono tracce di vita, tipo la clorofilla o qualcosa visto da lontano. Attenzione che parliamo di cose viste da lontano dove non andremo mai. Dove non andremo mai. L'altra cosa, purtroppo poco cinematografica, come dire che se troveremo, come io sono convinto, della vita al di fuori della Terra, non saranno omini verdi, ET, telefono, casa, ma saranno probabilmente delle stupide muffe, dei batteri, degli oggetti, diciamo così, monocellulari, come ricordo l'enorme maggioranza della vita sulla Terra. Noi esseri umani siamo una fluttuazione totalmente trascurabile rispetto ai 4 miliardi di anni di vita sulla Terra. E su questo possiamo farcene una ragione. Ecco, ricercare significa investire tempi importanti. Io prima ho citato gaming, che appunto è ben nota soprattutto tra chi appunto segue la fisica, l'astrofisica. Lei ha lavorato quanti anni? 20 anni e ha scelto il nome gaming, insomma, chi è vagamente lombardofono sa che vuol dire che non c'è. Esatto, perché per 20 anni sembrava che non ci fosse. Dico subito che il nome è stato scritto molto prima che il signor Bossi entrasse in politica, per essere chiaro, però gli americani adesso la chiamano gaming. Senza capire il dialetto milanese. Certo, come tante volte capita con nomi. Questo perché la ricerca costa in termini di investimenti umani, e forse questo è un po' l'elemento che si fa più fatica a condividere, soprattutto in questi tempi in cui la produttività è un dovere, eccetera, eccetera. Voi avete lavorato, lei ha lavorato per 20 anni su qualcosa di cui non aveva certezza. Ci credevo, ovviamente, certo. ma certamente non avevo certezza, ma non me lo sono mai posto il problema, no? Non avrei mai potuto fare nient'altro, ci credevo, sognavo di notte, mi svegliavo al mattino, come adesso naturalmente, i problemi ai quali lavoro adesso, senza porsi domande su a cosa serva, per esempio, che è la domanda che distrugge la ricerca. Quindi... E questo è il vostro mestiere. Io vorrei un po' andare verso la conclusione. Tra l'altro c'è una citazione che tra le molte del libro. Lei dice: i piani sono inutili, la pianificazione è essenziale. Questo ancora mi sembra che stia parlando al 100% di ricerca. Assolutamente sì, nel senso che immaginare di prevedere come sarà la ricerca tra 10 anni, inutile, perché sarà sicuramente diversa, però pianificarla invece è fondamentale, perché noi al meglio di quel che sappiamo adesso dobbiamo andare avanti, però sapendo che troveremo senz'altro, per fortuna, qualcosa di inaspettato. Abbiamo detto in apertura, lei ha ribadito la sua stima nei confronti, quasi se vogliamo, quasi d'ufficio, visto appunto la sua storia e il suo ruolo, però per quello che è la ricerca italiana. Nel libro lei fa una dedica che di fatto è rivolta ai precari, è interessante, anche il ministro Profumo, le sue prime parole l'ha dedicata agli studenti e ai precari. Lei dice, noi in Italia abbiamo i precari, fanno la ricerca per pochi denari, fanno il futuro che loro non hanno prendendo meno di quello che danno. E poi la firma, vi dice grazie un vero barone. Ora, barone non è proprio un termine... Non importa, io ufficialmente sono un barone, nel senso che sono un professore... Affermato ad una certa età, eccetera, ma molto volentieri dico grazie, perché la ricerca la fanno loro. Gli ho scritto 8 endecasillabi in rima baciata come dedica, un po' per scherzo, ma molto molto sul serio. E mi sembra tra l'altro che l'abbiano apprezzato. Insomma, molto molto sul serio, perché la situazione è ovviamente, come dire, delicata, però non è destinata ad essere. Si può trovare una modalità più serena, quantomeno, se non perfetta, naturalmente. Che... Ma certo che si può, tra l'altro non è che ci sia niente da inventare, voglio dire, noi siamo dentro in un'Europa, gran parte della ricerca è europea, gli altri grandi paesi europei, penso alla Francia dove io ho vissuto tanti anni, ma come la Germania o l'Inghilterra, riescono a fare ricerca bene, con un vivaio di giovani entusiasti che devono avere delle possibilità, degli sbocchi, delle aspirazioni, ma anche una inevitabile selezione. Insomma, veramente in quel senso non c'è niente da inventare, certamente c'è da investire. In conclusione, ci faccia, come dire, ci riporti un po' altrove, nel tempo e nello spazio. Abbiamo citato la vita sulla Terra, la vita fuori dalla Terra. Se dovesse investire i prossimi 100 anni della sua ricerca, cosa punterebbe lei personalmente? Io sono un astrofisico e quindi ho, come dire, una visione personale. Però se mi astraggo, se guardo dall'esterno, è forse la ricerca sul cervello, cioè sulla interazione tra l'uomo e la macchina, quella cosa che io scherzosamente nel libro chiamo la chiavetta USB da piantarsi dietro l'orecchio. Concettualmente è una cosa, se uno immagina la possibilità, assolutamente affascinante, un'interazione diretta tra il computer e il cervello che porta a un'espansione, a un'evoluzione. Trovo che quello sia uno degli argomenti più affascinanti, pari alla genetica. Naturalmente la ricerca della vita al di fuori della Terra e, lasciatemelo dire per ultimo, la comprensione dell'enorme maggioranza dell'universo. Noi astrofisici ce la tiriamo, ma capiamo il 4% dell'universo. Il 96% è tutto da scoprire per i precari che stanno arrivando. E questa è un'ottima notizia per concludere, quindi c'è molto su cui lavorare. Grazie al professor Giovanni Bignami. Cosa resta da scoprire? Quindi un viaggio tra un breve, direi, passato e soprattutto nelle proiezioni della ricerca, pilastro fondamentale e non solo, scusate il gioco di parole, della ricerca stessa. Bene, siamo in conclusione, non mi resta che ringraziare Peter Bescapè in regia e darvi appuntamento per sabato prossimo alle 19:30. Buon fine settimana a tutti voi.